pioggia generosa sia, che la notte dai pensieri porta via. Infinito il rimpianto quando avremo capito che non tutto sarebbe finito. Tormentoso il cammino sotto un cielo nero, ma che l'uomo diventi uomo vero. Siano dolci le parole se non capiremo, a cantare il dolore torneremo. Non si muore d'amore, ma si muore di fame. Penseremo a chi vive come un cane. Per un giorno di ricchezza non ci venderemo, ci sarà tanto asfalto di meno. Nel momento in cui le braccia si vorranno fermare, non avremo noi stessi da odiare. Generosa la pioggia, generosa sia, che la notte dai pensieri porta via. Thank you.